se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui. Ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii. Contro la nostra volontà, adesso e subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì. Con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì. Senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei. Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te. Se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì. Con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì. Senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.